chi la gettò. La luna dell'amore mio, chi la gettò? Una grande rete di stelle io prenderò, e dal profondo del rio la luna mia ripescherò. E volta se vuoi girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi lo tornerai a incontrar. Gira e volta se vuoi girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi lo tornerai a incontrar. Chi gettò il mio amore nel rio, chi lo gettò? Per darmi tanto dolore, chi lo gettò? Ma stavolta aiuto dal cielo non cercherò. Con una rete di baci l'amore mio riprenderò. Gira e volta se puoi girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi lo tornerai a incontrare. Gira e volta se puoi girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi lo tornerai a incontrare. Volta se puoi girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi lo tornerai a incontrar. Gira e volta se puoi girar, ma l'amore non puoi fermar, se lo perdi lo tornerai a incontrar.